Time Out di Luca Mastrantonio. Ultime e confuse notizie dal mondo dei falsi d'autore. I diari di Mussolini, spinti da Dell'Utri e confutati da molti storici, hanno trovato un editore, la Bompiani, che li pubblicherà con la dicitura veri o presunti, lavandosene un po' le mani. Naomi Campbell è stata sconfessata da Mia Farrow sui diamanti che ha ricevuto dal presidente sanguinario della Liberia, Taylor, e quindi ha adottato la strategia di Pinocchio. E su Fini in questi giorni non si parla altro che delle sue mezze verità, dei suoi silenzi, delle sue forse bugie. E Tommaso De Benedetti, ricordate questo giornalista che si inventava le interviste a grandi scrittori stranieri come Philip Roth, è stato sbugiardato dal New Yorker, ma lo stesso New Yorker recentemente ha indetto un concorso per aspiranti Tommasi De Benedetti: mandate le vostre false interviste. Ma perché oggi, vera o falsa, una notizia che sia rimbalza sui giornali senza che poi la si possa controllare? Perché un personaggio che magari ha mentito o ha prodotto qualcosa di falso comunque resta un personaggio e diventa magari una star, fa tendenza. La verità mi fa male. Benvenuti gentili ascoltatori a Time Out. Io sono Luca Mastrantonio e oggi, come ogni sabato e domenica di Radio 24 di quest'estate alle 9:30, ci prendiamo una pausa di riflessione, fermiamo il tempo per capire se il gioco a cui ci siamo iscritti sta cambiando regole o se siamo noi che dobbiamo rinnovare gli schemi di percezione. Oggi parleremo dei falsi d'autore, parleremo di chi si inventa interviste, di chi dice bugie per difendersi e cercheremo anche di capire a volte come difenderci dalle bugie, leggere sul volto delle persone oppure riconoscere in alcuni racconti storici delle costanti che ci fanno capire che siamo di fronte ad una finzione. Qui parla chiaro. Qui mi sta scritto, la legge punisce i falsificatori e gli spacciatori di monete false. E qui vi volevo. E sì, perché noi non spacciamo la moneta falsa. Questo qui c'è autentico. È sacrosanto autentico della zecca. Casomai noi tutt'al più possiamo essere una succursale. In francese si direbbe una dipendance. Siamo in collegamento con Sergio Romano, ambasciatore, grande carriera diplomatica, giornalista e soprattutto storico. Buongiorno Sergio Romano. Che idea si è fatto dei veri o presunti, come li definisce la stessa Bompiani che li pubblicherà, diari di Mussolini, di cui si è tanto parlato in questi giorni? Mi sono parsi abbastanza curiosi, addirittura sorprendenti, perché Mussolini si occupa di cose di cui non mi sembra che avrebbe dovuto occuparsi. Quei diari sono molto più frivoli per certi aspetti di quello che avrei potuto immaginare. E questo naturalmente apre, per così dire, un interrogativo. O il falsario è straordinariamente intelligente e spiritoso, oppure potremmo essere anche di fronte, perché no, a un Mussolini abbastanza inedito. Anche se naturalmente sappiamo, gli storici ce lo hanno già spiegato, che alcuni riscontri non funzionano, che i diari quindi hanno l'aria di essere falsi. Ma questo, al punto in cui siamo, non ha più importanza. Ormai questo diario è diventato un falso importante, un falso d'autore, ma di che cose di questo genere? Ne sono già accadute parecchie nel corso del Novecento. Per esempio ci fu uno straordinario falsario olandese che si chiamava Van Meegeren mi sembra, il quale falsificava i Vermeer in maniera stupenda e a un certo punto trovarono un Vermeer dopo la guerra nella collezione di Göring. E siccome vendere opere d'arte ai tedeschi era un crimine nazionale, il povero Van Meegeren fu processato. Allora dovete confessare che quel quadro sì, era stato venduto a Göring, ma era totalmente falso. Quindi fu una salvezza questa volta. Quindi, no, tra l'altro il povero uomo poi morì immediatamente dopo. Fu però condannato, nonostante questa confessione, a un anno di prigione, perché era pur sempre colpevole di aver fatto dei falsi. Da storico però, come ovviamente lei mi sembra divertito dalla abilità eventuale di questo falsario, ma da storico non è un po' spiazzante, forse troppo fantasioso e parodistico pubblicare dei testi dichiarando che non si sa se sono veri o presunti? Se io fossi l'editore le direi che questo ormai è un caso editoriale, è un caso storico e come tale merita anche di essere segnalato, festeggiato, in qualche modo sottolineato, Il British Museum negli anni 60 o 70, non mi ricordo esattamente, fece una straordinaria mostra dei falsi che il museo stesso aveva comperato nel corso della sua storia. Senta, lei ha dedicato forse al più grande falso storico, i falsi dei protocolli di Sion, un libro uscito nel 92, se non sbaglio, per Corbaccio, ma soprattutto della sua esperienza ad ambasciatore a Mosca. Quante bugie ha dovuto sentire? Ma anzitutto i servizi segreti vivono di falsificazioni anche abbastanza sofisticate, qualche volta piuttosto intelligenti, occorre riconoscere. Una delle falsificazioni di quegli anni su cui i sovietici insistevano molto, era quella secondo cui l'AIDS sarebbe nato in un laboratorio americano come risultato di ricerche per la guerra chimica e batteriologica. In altre parole, l'AIDS era un sottoprodotto della politica militarista, imperialista degli Stati Uniti, e questa cosa circolava parecchio e finì anche per convincere qualcuno nel Terzo Mondo che era quello che i sovietici in quel momento avevano di mira. Ci sono anche, così concludiamo, per par condicio del blocco della Guerra Fredda, per usare un'espressione che recentemente è stata riutilizzata per un libro, L'arte della menzogna di Jonathan Swift, la bugia democratica. Ci sono anche delle bugie democratiche, ossia delle controinformazioni che in quegli anni della Guerra Fredda venivano dette e messe in circolo dalla parte occidentale, dalla parte democratica. Abbiamo citato una russa. Ci sono moltissime bugie democratiche, voglio dire, la democrazia è il teatro delle bugie, non c'è niente da fare, voglio dire, per essere eletti si mente. E anche nella politica internazionale le democrazie hanno mentito. Non ho mai capito veramente se questa che le sto per citare fosse una bugia intenzionale o no. Quindi è molto riuscita. Ed era la bugia che commetteva la CIA ogni anno, sistematicamente, quando faceva un profilo dell'Unione Sovietica da cui risultavano tra l'altro alcune considerazioni di carattere economico sull'importanza del prodotto interno lordo, cifre come l'inflazione, eccetera, eccetera. Erano tutte bugie perché abbiamo scoperto dopo il 1989 che quelle analisi erano grossolanamente esagerate. L'Unione Sovietica stava infinitamente peggio di quanto non dicesse la CIA. Allora qualcuno è venuto il dubbio che la CIA quelle bugie le dicesse, perché quello era il modo migliore per acquisire gli stanziamenti di bilancio di cui aveva bisogno, di cui riteneva avere bisogno. Quindi una doppia bugia, un doppio salto mortale. Ringraziamo Sergio Romano di essere stato con noi. Grazie a lei. Grazie. E ci ha ricordato che durante la Guerra Fredda se ne producevano molte di bugie, poi vedremo, vengono spesso riscaldate anche quelle antiche. Caduto il muro, l'arte della menzogna, democratica o meno, ha continuato a fabbricarsi. Il muro, the wall, mattone alla volta, le bugie si rafforzano, a volte diventano muri di gomma e a volte spesso vengono riciclate queste bugie, queste storie, questi falsi, questi complotti. E siamo in linea con uno scrittore che di complotti e di falsi storici ha dedicato un libro per Einaudi, Sarà vero? La menzogna al potere, falsi sospetti e bufale che hanno fatto la storia, di Enrico Buonanno. Buongiorno Buonanno. Buongiorno, buongiorno. Ci aiuti a capire, ci racconti qualche falso storico che ha fatto storia, che ha cambiato il corso degli eventi, italiano o straniero? E quello che dobbiamo sempre tenere a mente è la frase di Montaigne, cioè una forte immaginazione genera eventi. Ecco, la fantasia è già stata al potere, ma in maniera concreta, perché anche l'inesistente può a volte avere conseguenze pesanti, cioè i falsi hanno accompagnato la storia, per esempio, del mondo attraverso le guerre. Noi adesso ancora siamo scottati da i casi dell'Iraq, le armi di distruzione di massa, ma ad esempio già Napoleone, nel momento in cui doveva trovare una scusa per attaccare la Russia, ecco, produsse un documento come il Testamento di Pietro il Grande, che era questo presunto testamento del vecchio zar delle Russie, in cui si diceva appunto che la Russia aveva in mente di conquistare il mondo, e quindi, ecco, pronta una scusa, no? Per attaccare il prossimo dobbiamo sempre fingerci in pericolo innanzitutto, ma poi i falsi hanno creato identità nazionali. Nel Settecento la Scozia, nel momento in cui doveva differenziarsi dall'Inghilterra, trovare una propria identità di popolo, ricorse a falsi letterari come quelli di James McPherson, ecco, che anche lui, questo maestro elementare, gridò al miracolo quando disse di aver trovato questi canti di Ossian, che erano un documento straordinario di un antico bardo scozzese che provava come le Highlands avessero avuto un passato raffinatissimo di poesia, di lirica. Un altro complotto letterario, Walter Scott ad esempio, fu tra quelli che inventò il kilt, che era qualcosa assolutamente di non usato e non rappresentava affatto il costume tradizionale scozzese, ma alleandosi anche con un'industria tessile a cui avanzavano alcune stoffe divise in tartan, decise che, ecco, i clan scozzesi si differenziavano da sempre indossando questo strano indumento. E i falsi hanno creato anche credenze religiose, appunto, quando pensiamo ai tre re magi, quando pensiamo alla stella cometa, quando pensiamo al buell'asinello. Andiamoci a rileggere il Vangelo, ogni tanto scopriremo che non c'è nulla di tutto questo scritto. Sono tutte cose nate spesso anche per interesse politico, ma quindi ci ha distrutto il presepe, buon anno. Sì, mi dispiace. Quando andiamo in Scozia ormai diffideremo di tutto, anche di ciò che è vero, magari le cornamuse eccetera, e a questo punto siamo un po' disorientati. Mi realtà proprio a lei possiamo chiedere: ci sono però delle strutture ricorrenti, delle figure anche narrative di questa immaginazione ricorrenti? Penso al grande vecchio, che lo troviamo in Bin Laden incarnato, o nel romanzo criminale di De Cataldo dedicato alla banda della Magliana. Ci dia qualche elemento, così noi quando sentiremo questi nomi dubiteremo un po' della veridicità o capiremo che può essere una finzione o un falso. Sì, soprattutto è una tattica di difesa, almeno per farsi suonare un campanello di allarme, perché i falsi funzionano proprio come i vecchi romanzi d'appendice, cioè attraverso delle strutture fisse. Ad esempio, non so, quando si parla di complotti, ecco, la banalità può stare in questi documenti top secret, che sono di solito cose che nessuno può leggere, ma che qualcuno, magari un blogger sedicenne, è riuscito a leggere una volta e che è in grado di svelarci. Soprattutto poi c'è l'annullamento del caso, ecco, il complotto e il complottismo viaggia secondo una struttura mentale per cui nulla è per caso, e quindi in fondo si annulla anche il principio della vita, secondo cui insomma il caso esiste. Tutto è manovrato da una piccola elite che è in grado di governare a questo punto anche gli elementi naturali, visto che quando ci fu lo tsunami qualcuno gridò al complotto sionista, insomma. Ecco, sionista penso sia una parola che, associata a complotto, deve farci pensare che siamo di fronte a un potenziale romanzo d'appendice, immagino. Il nemico può cambiare. Già nel 600 l'elite erano i gesuiti contro cui prendersela, poi nel 700 ci furono i complotti massonici. Nella fine dell'800 e nel 900 alla massoneria fu abbinato anche l'internazionale ebraica, ma poi la struttura del racconto rimane la stessa. In fondo basta trovare un nemico un po' diverso, un po' oscuro ai nostri occhi, e poi per il resto la trama è quella. Concludiamo con un grande topos forse dei falsi d'autore, che è il ritrovamento. Siamo partiti, ne abbiamo parlato anche con Sergio Romano, dei presunti o dei falsi diari di Mussolini, che sono stati ovviamente ritrovati. Il ritrovamento, da Manzoni almeno insomma in poi, è sempre stato un topos del falso d'autore. Buonanno, è così? Ci faccia qualche altro esempio. Il ritrovamento soprattutto di un documento che parli in prima persona, ecco perché poi i diari sono sempre stati anche molto, molto fortunati, da quelli di Hitler a quelli di Jack lo Squartatore, perché proprio anche questo rientra nell'ottica del feuilleton, cioè quando il personaggio deve svelare la propria personalità, deve parlare in prima persona, e quindi il ritrovamento di un manoscritto in cui qualcuno dice io è il mezzo migliore per conquistare il pubblico. Ringraziamo Enrico Buonanno di averci dato un codice di autodifesa da questi nuovi romanzi d'appendice. Grazie, buon anno. Grazie a voi. Philip Roth. Obama è una grandissima delusione. Sono stato fra i primi a credere in lui, ma adesso mi è diventato perfino antipatico. Toni Morrison. Oggi io credo che sia in atto una sfida nuova, quella tra civiltà e razzismo. Gunther Grass. Il mio stato d'animo a 20 anni dal crollo del muro di Berlino? Sono spaventato, anzi no, terrorizzato. Gore Vidal. Eccezionale Berlusconi. Un Remida pieno d'oro che adesso, oltre 70 anni, si compiace di far parlare delle proprie abilità amatorie. Frasi ad effetto, scoop giornalistici, scrittori che si negano e che invece hanno confessato a Tommaso De Benedetti i loro pensieri scomodi sulla politica. Abbiamo sentito queste citazioni da interviste, alcune tra decine che ha fatto Tommaso De Benedetti, sono tutte false. Philip Roth, quando è stato intervistato da un giornalista italiano e gli è stato chiesto ragione di questa frase su Obama per un pezzo uscito su Libero, ha negato di aver mai conosciuto e aver parlato con Tommaso De Benedetti. Piuttosto ha chiesto: ma è il nipote del grande critico letterario? Ebbene sì, Tommaso De Benedetti è l'ultimo discendente di una famiglia di italianisti, e Giacomo De Benedetti, il più grande critico del Novecento italianista, poi Antonio De Benedetti, uno scrittore importante, e invece lui si è inventato queste interviste. Decine, personaggi che vanno dal Dalai Lama a Ratzinger addirittura. È stato scoperto dal New Yorker, che però poi gli ha dedicato anche un concorso: mandate le vostre interviste immaginarie. E noi abbiamo provato a vedere cosa succede a contattarlo. Buongiorno? Buongiorno, buongiorno. Allora, ci racconti perché si è inventato queste interviste? No, la mia idea era quella di essere comunque un giornalista culturale serio. È onesto. Il problema è che in questo paese è impossibile. In questo paese l'informazione tutta è basata sulla falsificazione. Quindi mi sono prestato a questo gioco. Guardi però che io ho studiato letteratura, storia italiana, insomma, ho cominciato a lavorare come giornalista freelance. Quando è iniziato? Anticamente o invece è stata una scelta più recente a falsificare? Come talento ho iniziato alle elementari. Ah, sì, precoce. Per amore, cioè ero innamorato di una ragazza, una bambina, si chiamava Flavia, sapeva che ero bravo a falsificare le cose, le firme, si ricorda quando bisognava portare il libretto di giustificazioni, certo, eccetera. Allora, alla fine si è scoperto che ero bravo a firmare le autorizzazioni dei genitori, e quindi c'era la fila a scuola, venivano da me, chiedevano di falsificare le firme dei genitori, e quindi diciamo che da lì ho inventato un genere. Sì, poi in genere, insomma, le interviste immaginarie ci permettono, le ha inventate lei, si sono cimentati Camilleri, Calvino con l'intervista. No, attenzione. Interviste a personaggi del passato. Sì, ma sono interviste finte, dove c'è una convenzione, cioè il pubblico, il lettore sa per convenzione che c'è una finzione, e ce ne sono finte. E le mie sono false, quindi c'è un salto di qualità da questo punto di vista. E com'è che ha scelto di fare questo salto di qualità? Dice come... Ma guardi, è interessante questo perché 4 anni fa, in un viaggio in America, ero a Central Park con un mio amico che non rilasciava mai interviste, poi alla fine per questa mia insistenza gli ho fatto quasi tenerezza, e quindi con Jerome parlavamo e lui mi diceva: scusa, Jerome, come? Ci aiuti l'ascoltatore Jerome? Ah sì, certo, no, è l'autore del Giovane Holden. Ah, è Salinger. Sì, esatto. Sì, appunto. Sì, lei stava parlando con Salinger. Sì, vabbè, eravamo a Central Park e lui mi diceva: guarda, ma non devi mai lasciare interviste, perché quello che c'è nei libri basta e avanza. Insomma, se hai qualcosa da dire è meglio che tu lo dica nell'opera. Una vera massima, insomma, però... Tommaso De Benedetti a spasso a Central Park con Salinger, a noi capirà che sembra un po' una balla, ecco. Vabbè, prendiamo allora con diritto di riserva che Tommaso De Benedetti passeggiava. Scusi, ma chi è Tommaso De Benedetti? Scusi, Lei, Tommaso De Benedetti, passeggiava con Salinger. No, guardi, forse c'è un errore. Io sì, non sono Tommaso De Benedetti. Non so adesso lei, scusi, ma lei che numero ha fatto? Beh, guarda, me l'hanno passato dalla regia e lei ci ha spiegato, ci ha raccontato come si è inventato le interviste, quindi sì, ma immaginiamo, forse adesso l'ha detta un po' troppo grossa questa di Salinger, la vuole ritrattare. De Benedetti, non fugga dalle sue... C'è un errore, non sono Tommaso De Benedetti, lei ha preso un granchio, mi dispiace, scusi che siccome ho i fornelli accesi sto cucinando, la devo salutare. E allora votiamo il sacco. Al telefono non era Tommaso De Benedetti, l'avrete capito, non poteva passeggiare con Salinger a Central Park. Era Francesco Sala, un attore, un regista che ha prestato la sua voce. Abbiamo ceduto anche noi all'epoca della falsificazione, allo spirito dei tempi. D'altronde avevamo contattato Tommaso De Benedetti, che ci aveva assicurato che ci avrebbe dato un'intervista, e poi si è dileguato, si è volatilizzato, e quindi abbiamo fatto questa intervista finta. Anzi no, falsa, come direbbe lui. D'altronde chi la fa l'aspetti. Non dirà una parola. Non fa niente. Non importa, tanto non faccio affidamento sulle parole. Statisticamente in media una persona dice 3 bugie ogni 10 minuti di conversazione. E vi assicuro, parlo di gente normale, non di chi mette bombe in una chiesa di un quartiere nero. Questo caso è diverso. Non c'è tempo per i numeri da circo di questo scienziato. Sono già 4 ore che lo interroghiamo. Un amico del dipartimento dice che questo tizio è matto. Ha passato 3 anni nella giungla per studiare le sopracciglia di una tribù primitiva. Guardate le sue reazioni. L'APF sta passando al setaccio le 2 chiese più grandi, frequentate dai neri. Avete visto una breve espressione di felicità sul suo volto, anche se ha fatto del tutto per nasconderla. È durata meno di 1/5 secondo. È quello che chiamiamo microespressione. Ma che vuol dire? Come si fa? Guardate la sua bocca. L'indiziato è felice perché passiamo al setaccio quelle 2 chiese, il che ci dice che sono le chiese sbagliate. Ora gli dico qual è il nostro nuovo obiettivo e... Non sai di cosa parli. Scrollata di spalle asimmetrica. Traduzione, non ho fiducia in quello che ho appena detto. Il corpo contraddice le parole, sta mentendo. La verità è scritta sul nostro volto, è lo slogan di Lie to Me, serie di successo di Fox con un fantastico Tim Roth che abbiamo sentito istruire i colleghi sulla fisionomica. È uno psicologo delle emozioni e crede che ci sia nella comunicazione verbale il segreto delle confessioni involontarie. E siamo in linea con la dottoressa Maria Rita Parsi, che salutiamo. Buongiorno. Scrittrice, psicologa, psicoterapeuta, e appunto le chiediamo, dottoressa, innanzitutto di illustrarci alcune di queste tecniche di lettura fisionomica e di metterci anche un po' sull'attenti a non abusare di queste tecniche, magari in ambito domestico rischiamo di litigare con nostra moglie, con nostra figlia e magari non stavano mentendo. Io direi che è vero che il corpo parla, che ha un suo linguaggio e esprime le emozioni che noi magari assolutamente smentiamo, ma io torno a dire, non ne abuserei assolutamente, cercherei un altro modo, una confidenza diversa, altre parole. Quali sono comunque questi segni? Ci racconti? Per esempio il fatto di mettere le mani sul volto mentre si parla, toccare il naso, un po' la Pinocchio, no? Mascherare, quello che si chiama il mascheramento, no? Oppure non guardare negli occhi, oppure guardare negli occhi e poi togliere immediatamente lo sguardo. O scrollare le spalle quasi. Scrollare le spalle, dondolarsi, deglutire costantemente mentre si parla, quasi a recuperare saliva. E c'è poi un discorso importante che se sei seduto, accavallare le gambe o chiuderti, che però tra l'altro è una può essere indicata come anche come concentrazione, come un momento di riflessione o di chiusura, per esempio. Quindi può avere anche un altro significato. Beh, lei mi ha ricordato una grande scena di cinema di Basic Instinct con Sharon Stone che durante un interrogatorio accavalla le gambe. Nel film serviva non certo a mostrare che stava mentendo, ma a mostrare le gambe della Sharon Stone. Non so se si ricorda Basic Instinct. Come no, altro che. E aveva proprio concentratevi mentre diceva delle cose, concentratevi, fate attenzione al mio corpo e non a quello che sto dicendo. Lo diceva anche l'attrice. Poi importante è lo sguardo, no? Lo sguardo delle persone che mentono. Ci sono persone che mentono spudoratamente, perché stanno, mentre ti raccontano una vita che non hanno fatto e che non hanno dentro, ma che per loro vale quanto la vita che, come dire, non vivono ma avrebbero voluto vivere. Ecco, quindi, perché infatti diciamo bugie, dottoressa? Perché noi tutti perché, diciamo bugie, magari non ce ne rendiamo neanche conto. Tutti mentiamo. Mentiamo magari per delle piccole cose, magari per evitare un problema, per evitare un essere redarguiti, per non far male, per non procurare dolore. Quelle sono bugie, diciamo, sociali, a fin di bene, diciamo, o addirittura a fin di bene. Tu sai qual è il problema fondamentale? La solitudine. Si mente sostanzialmente per solitudine. Rimarrò solo se non racconterò di me quello che gli altri vogliono che io sia. E questo, la solitudine, forse è il timore maggiore di varie categorie. Un giornalista che deve andare sui giornali, quindi si inventa delle interviste, sì. Ma soprattutto un bambino solo che non vuole stare solo. Un bambino che è solo, perché quando è che noi iniziamo a mentire? Quando è che noi iniziamo a mentire? Quando siamo piccini, quando i grandi sgridano i bambini per le menzogne, ma si interrogano mai? Perché? Perché un bambino arriva a mentire? Intanto i bambini mentono, le bugie dei bambini non esistono, sono eccessi di fantasia. Siamo partiti da alcuni casi di cronaca che vorrei sottoporre alla dottoressa, sì. I falsi presunti diari di Mussolini, poi le accuse che stanno venendo in politica a Gianfranco Fini di dire bugie e Naomi Campbell che ha mentito, secondo Mia Farro, sui diamanti che gli sono stati regalati. Rapidamente questi tre casi così diversi. I diari sono un'occasione di riflessione interessantissima sulla storia, falsi o veri che siano, uno si mette a riflettere su che cosa rappresentano, sono un'occasione culturale di pensiero. Gli altri due sono delle cose da accertare, perché dietro ci sono delle persone e queste persone devono avere la possibilità di dire la verità. Io le vorrei liquidare con una frase di Lernet Kolenia, Alexander Lernet Kolenia: bisogna sempre compiere, sempre e soprattutto, azioni irreprensibili. Sono assai migliori delle scorrettezze, perché la gente non se le aspetta. Tante volte i falsi storici, torno a dire, sono occasioni culturali, dimostrando che sono falsi. Qui è un grande momento di contrapposizione. Anzitutto non credo ne venga un bene per l'autore, per la Bompiani, se presentati come veri, come autentici, poi si dimostra che sono falsi. Però questo è un dibattito culturale intorno a temi culturali, cioè uno si mette sono falsi, sono veri. Diverso è la responsabilità, da una parte c'è Noemi e un mondo di morti, di sofferenze, di guerre, di traffici, dall'altra parte c'è un presidente, veramente è un discorso molto serio, ma varrebbe sempre la pena di essere proprio sempre corretti, perché la scorrettezza ha un gran successo, anche perché la gente non se lo aspetta. Benissimo, anche noi ci accogliamo a questo appello all'irreprensibilità e ringraziamo la dottoressa Maria Rita Parsi di essere stati con noi a Time Out. Grazie. Grazie a lei. E quindi non dobbiamo far male agli altri, le bugie si mente a se stessi, ma attenzione, non è solo un'autodifesa, a volte è una tattica di attacco e la vittima è la verità. Per diventare famosi, perché si parli di noi, si mente, si diventa come Pinocchio e non sempre però c'è l'intervento della fatina. Il nostro Time Out finisce qui, io sono Luca Mastrantonio, ringrazio Valerio Rocchetti in regia, vi ricordo che Time Out va in onda su Radio 24 alle 9:30, sabato e la domenica. Grazie.